abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno da Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, il sottoscritto e Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va, ragazzi? Come va? Ma per gli interisti meglio, Domenica saranno 70.000 contro il Torino, prodotto della vittoria, brutta, sporca e cattiva di ieri sera a Verona. Sai chi se ne intende di Inter dei record? Pardo? Provaci. Andrea Mandorlini. C'erano delle varie, c'erano tre o quattro italiani, una era Andrea Mandorlini. Buongiorno, come va? Ciao Andrea. Ciao, bene. Ciao. Tutto a posto, grazie. 1988-89, tra l'altro, ieri auguri a Maradona, oggi auguri a Van Basten. Guarda caso, sono giorni fortunati. Allora, Inter 58 punti, 26 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte. Sbaglio, Andrea? No, non sbaglio. Infatti poi, insomma, l'Inter dei record. Beh, insomma, poi hai nominato, insomma, grandi campioni in quel periodo lì, insomma, facevano parte di squadre avversarie, ma grandissimi, che insomma è stato un momento fortunato per me, per al di là della vittoria quell'anno lì del record, poi di giocare contro veramente dei campioni formidabili. Sì, quell'anno lì faceste anche 3 gol. Mica male per un difensore. Poi vincenti, proprio ad Ascoli, l'apertura della stagione, poi sì, insomma, sì, con la Sampdoria. L'ho controllato sul web, non è che non ricordavo. Io ancora ricordo, la memoria va bene, mi ricordo, dai. Senti, Pardo, questa Inter di ieri sera, spallettiana più che mai, vittoria, sì, dicevo, brutta, sporca e cattiva, in stile Inter di quest'anno. Guarda, è sempre la stessa storia, secondo me. I 60-70 minuti con la Samp hanno rappresentato un po' un'eccezione di questa stagione. Mi avevano, non so perché li ho commentati, forse sai quando le partite le commenti ti rimangono di più nella testa, però quei 60-70 minuti avevano dato la sensazione che l'Inter stesse lievitando sul piano del gioco e proprio della qualità della manovra. Per il resto è una squadra che conferma i suoi 1000 pregi, perché sono 1000, perché comunque questo è il record della storia, c'è poco da fare. Ed è anche un qualcosa di meritato, cioè i numeri non mentono, e al tempo stesso sicuramente sul piano della manovra, delle amnesie, insomma qualcosa ancora è migliorabile, però ripeto, sono tutte buone notizie, nel senso che pensare che questa squadra possa migliorare è farle un ulteriore regalo, no? Certo, che significa che può ancora crescere, può ancora portarsi a un livello più alto. I numeri sono incredibili, cioè vincere così tante partite anche soffrendo, anche faticando, anche trovando i gol all'ultimo, secondo me è una qualità enorme. E come dicevamo dopo qualche giornata, non mi sembra l'Inter di Mancini 2-3 anni fa. No, no, è una differenza profonda. Mi sembra più solida e lo sta confermando. Mister Mandorlini, hai visto che gli allenatori contano alla fine? Nonostante si dica ma l'allenatore non deve fare danni, l'allenatore conta 5%, 10%, 7%, secondo me questa... No, a certi livelli l'allenatore conta sempre, però è chiaro che in Serie A ci sono anche dei valori tecnici molto molto alti. Diceva un grande direttore sportivo, Rito Braida, l'allenatore conta molto di più in categorie inferiori, dove magari il livello più o meno è paritario un po' di tante squadre, ma in Serie A il valore tecnico, insomma, i giocatori, i campioni cambiano a volte gli esiti, pur magari contro più o meno il valore di certi allenatori. Però ascoltavo un po' quello che dicevate in sottofondo, no? Ma per tanti aspetti rispecchia un po' anche l'anno dello scudetto dei record, no? Noi partimo male, diciamo tante partite, 6-7 partite di fila, 1-0 giocando male, un po' quello che sta avvenendo adesso. Ma ricordo sempre allenatori, Trabis in campionato una volta era 30 partite, 10 partite giocate così, 10 giocate discretamente e 10 giocate bene. L'Inter in questo momento ha passato un po' tutte queste fasi, non ha giocato bene, vinceva, ha fatto buone partite e le ha vinte. Ieri sera magari non è una partita eccessa, però quello che conta nel nostro campionato, che è difficilissimo, non sarà bellissimo, ma sono i punti. Sì, ma è chiaro, se no parliamo di... Ma tante volte in questa stagione ci troviamo a parlare di estetica e pratica, critica della ragion pura per andare sulla filosofia, quindi... Però, Pier, abbiamo detto mille volte, è un discorso che facciamo anche con Mandorlini, che è ex, ovviamente, anche del Verona, è una roba sempre molto strana, cioè le cinque davanti corrono a perdi fiato e non possono mollare niente. Prima vedevo un confronto tra classifica l'anno scorso e quella di quest'anno. Napoli ha più 11, la Juventus ha più 1. Ah, è surreale, dai, è surreale. Sì, abbastanza surreale. È surreale anche perché non è che l'anno scorso ci fosse il campionato anni 80, quello in cui vincevi lo scudetto vincendo in casa e pareggiando ad Ascoli o a Cesena. Cioè, era già ormai da parecchi anni un campionato abbastanza squilibrato. E l'idea che ci sia stato questo ulteriore strappo è in qualche modo abbastanza incredibile. È chiaro che toglie qualcosa alle vittorie di queste squadre, no? Nel senso che poi toglie qualcosa in che senso? Che la concorrenza è talmente debole che... No, ma toglie, sì, nel senso che per dirti, cioè, la Roma ha vinto adesso col Bologna e col Crotone, sono due partite col Torino, sono 3-1-0 importanti, però poi alla fine non recuperi mezzo punto alle altre. E il Napoli batte il Sassuolo, vince a Genova col Genova, cioè vale per tutte questa cosa qui. Contano gli scontri diretti, cioè sta diventando un campionato veramente alla portoghese, alla scozzese, alla olandese dei tempi, in realtà adesso anche di meno, perché probabilmente Feyenoord, Ajax, PSV hanno qualche inciampo in più di quelle che hanno le grandi del nostro campionato, però sta diventando un po' quella formula lì, che ti giochi tutto negli scontri diretti. Sì, da sì. Un lato, ripeto, è più bello perché gli scontri diretti diventano delle partite ancora più magnifiche di quelle che erano prima. Dall'altro, nella regolarità del campionato, insomma, cioè Benevento-Lazio dell'altro giorno, per merito della Lazio, per carità, ma era una partita dove veramente a mezzogiorno e 50 potevi andare veramente a fare la cacio e pepe, perché cioè, no, ma è così, quando una squadra con poca autostima comincia in quel modo una partita contro la Lazio lanciatissima, è chiaro, e dopo 20 minuti è sotto 3-0 e sì, sull'altro fronte, appunto, mister Mandorlini, no, c'è il rovescio della medaglia, c'è una squadra che dopo 11 partite ha 0 punti, ma come la mettiamo? Cioè, non è possibile vivere campionati come questo, no, o come quello dell'anno scorso. No, è vero, però io sempre l'idea, ripeto, che adesso negli ultimi anni è cambiato un po' il trend, però insomma sono sempre stati campi difficili nelle neopromosse, oppure anche ieri sera, anche se l'Inter ha vinto pur non giocando nella Canale, però insomma ho visto un Verona abbastanza vivo pur nelle enormi difficoltà che ha. Non lo so, io gli ultimi anni così, investimenti dalle squadre che salgono, i valori tecnici non sono molto alti, si vede, si dice a Zardo, insomma, sono certe partite che sono finite ancora prima di iniziare. È un peccato, perché credo che l'Inter non sia, a parte forse il Napoli che sta riflettendo un po' un gioco con grande continuità, è un campionato difficile, su cui ogni campo rischi di perdere, invece questo da un paio d'anni non è più così. Non però è così. Stiamo parlando di 10-11 partite, poi le cose magari possono ancora cambiare, mi auguro che sia così. Io la vedo dura, onestamente, non sono molto ottimista. La vedo dura. Uno su Twitter ha detto l'altro giorno: Vardo e Genta, tutti i convocati erano sicuri che il Napoli arriverà sopra i 90 punti. Ma a parte che di sicura c'è solo una cosa e non è tanto piacevole. Esatto. Quindi ecco, io sicuro non sono, però francamente, ma questo non vale solo per il Napoli, vale per tutte e cinque quelle lì là davanti. Faccio fatica a immaginare che nelle partite ci possa essere un riequilibrio di livelli fra le grandi e le piccole. Oggi veramente le squadre con cui puoi perdere dei punti sono diventate pochissime, sì. Sono diventate 4-5 in più di quelle 5, ovviamente la Samp, ovviamente l'Atalanta, il Torino, l'Atalanta se si sveglia bene, ecco, però insomma, cioè, poi con 7-8 squadre veramente te la porti da casa, e questo è oggettivo, è nei numeri. Ed è un po' un peccato che sia così. Adesso, tra l'altro, è notizia di questi giorni il progetto di ridistribuzione dei diritti televisivi, che secondo me è stato il vero problema. Cioè, secondo me per tanto tempo si è fatta tutta una discussione su lobby presunte tali, ma in realtà il vero tema, quello reale, e sono contento che ci stia arrivando, è quello della distribuzione, del metodo di distribuzione dei diritti televisivi. Cioè il fatto che noi siamo un modello a metà fra quello spagnolo, dove Real e Barça fanno quello che gli pare, e quello inglese, che invece è quello molto equilibrato, e si sta cominciando a tendere verso quel tipo di modello lì. E secondo me alla lunga è chiaro che poi Juve, Milan, Roma, Lazio e Napoli qualcosa ci mettono, certo, però, certo. Però è anche vero che è un sistema che, se vogliamo puntare sul nostro campionato, potrebbe assicurare un maggiore equilibrio. Un ascoltatore mi scrive che tra un paio d'anni compra il Verona e riprende Mandorlini come allenatore, un mito, una leggenda, forzella, si chiama Claudio, quindi neopresidente del Verona. Andrea, un'ultima cosa. Napoli come squadra più bella del campionato, sì, come squadra più bella del mondo, o hai qualche altra idea? Ti piace qualcos'altro? Guardando il nostro campionato, sicuramente la squadra che gioca meglio, la squadra che è cresciuta tantissimo, però anche lei, insomma, adesso fino a gennaio, insomma, davanti sono sempre quei tre lì, hanno perso Mili, quindi qualche problema, magari gli auguro di no, però potrebbe succedere, hanno ancora le coppe che qualcosa portano via. È la squadra che gioca meglio, la squadra che ha avuto la crescita, la più bella da vedere, la più equilibrata, insomma, tanti aspetti positivi, cioè poi i punti più 11 dello scorso campionato. Però, ripeto, la Juve è a fase altalenante, però è lì. L'Inter credo che stia facendo nella storia, non ha mai fatto così bene, ed è lì. Quindi, secondo me, il campionato quest'anno è molto più equilibrato. Io mi auguro che fino alla fine queste tre rimangano in corsa, poi qualche outsider, magari la Roma o la Lazio, la stessa Sampdoria che mi piace tantissimo, potrebbero dire ancora qualcosa da loro, però assolutamente il Napoli è la squadra che gioca meglio ed è giusto che sia davanti in questo momento. Ascoli, non dimentica, grande Mandorlini. Ciao Andrea, altro messaggio che arriva. Saluto con questo. Ciao Andrea Mandorlini, e adesso ci fermiamo per il traffico, Pardo, poi andiamo sulla vigilia di Champions League, perché insomma ci aspettano tre grandi partite, due, la Juventus gioca a Lisbona e può conquistare la qualificazione già questa notte, e poi c'è ovviamente Roma-Chelsea e domani il confronto tra le due più belle d'Europa, Napoli-City. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Tutti convocati. Noi non abbiamo giocato una partita tutto per tutto, noi abbiamo giocato una partita per quella che deve essere la nostra identità, il nostro modo di ragionare in ogni gara, per quello affronteremo il Chelsea e voglio con la stessa mentalità in cui abbiamo affrontato anche le altre gare, dove magari potevamo fare qualche gol in più e siamo stati meno incisivi negli ultimi 20 minuti, però la mentalità deve essere la stessa, come ho detto dopo la gara col Chelsea, deve essere un punto di partenza, per quello oggi continuiamo questo percorso. Domani sarà un'altra partita molto dura contro una buonissima squadra che è la Roma. Ripeto, dovremo cercare di dare il meglio di noi stessi. Allora, ovviamente di Francesco e Conte. Pierluigi Pardo indovina indovinello. Doppio ex dopo Mandorlini. Ma lo so, ma l'ho organizzata io stamattina alle 8. Alle 8! Però le 8:30, sì, ma guarda che qua De Luca di trotta. Io ho capito una cosa, che bisogna dormire un po' meno, Bisogna? Scusa? Dormire un po' meno, cioè ormai sono 5-6 ore. Io sono anziano, dormo pochissimo. Un po' di produttività. Vabbè, morale, comunque. Doppio ex di Roma e Chelsea. Un po' sonno, sì. Marco Meglia. Marco Meglia, buongiorno. Media. Buongiorno. Buongiorno. Dove sei? A che ora ti sei svegliato stamattina? 7:30. Dove, a Coverciano? Coverciano, sì. Quindi parlo di che stai parlando? A me gli è svegliato 7:30 a Coverciano. Vabbè, lo so, infatti a me io lo stimo anche per questo. È del nostro stesso partito. Doppio ex un po' combattuto, perché comunque rimane molto legato all'ambiente del Chelsea, ma insomma un po' romanico. Come la vedi? Siamo per i sentimenti, razionalmente parlando, chi è la favorita stasera? Caro mister Amelia. La favorita, secondo me, è difficile da tirar fuori tra le due squadre, perché comunque stanno venendo da momenti diversi. La Roma, che ha trovato una quadratura a livello di fase difensiva incredibile e fa un po' più fatica a far gol. Il Chelsea, che viene fuori periodo dove i risultati non c'erano e se lo sta venendo fuori con i grandi campioni, e tirar fuori una favorita da questa sfida non è facile. E in questi casi magari l'ambiente può fare la differenza e forse l'Olimpico può dare qualcosa in più alla Roma, però di fronte poi trovi una squadra che è abituata a giocare in atmosfere difficili e che ha i giocatori di grande qualità che possono fare la differenza, quindi una favorita sulle due è veramente molto difficile. Però la Roma gliel'ha impastata al CES l'andata, Pierluigi, quel 3-3 che poteva essere anche diverso. Io però ho cominciato ovviamente a preparare la partita. Che commenterai stasera? Sì, ti dico che questa è la notte per volare. Bravo, sono d'accordo. Senso che il pareggio serve abbastanza poco. Bravo. A meno che la Atletico Madrid non pareggi col Carabaglia. Adesso non voglio tediarvi con tutte le mutazioni. Speriamo, dai. Esatto. Siccome la Atletico Madrid vincerà col Carabaglia, a quel punto se la Roma va a 6 o rimane a 5 in caso di sconfitta non cambia molto. Poi ci sono tutti i discorsi ovviamente sull'autostima, sul fatto che perdere non aiuta mai, per carità, tutta una serie di discorsi, però io credo che la Roma debba provare a vincere la partita, perché se vincesse stasera poi con una vittoria in casa all'ultima col Carabag, anche perdendo a Madrid, sarebbe certa della qualificazione, e la qualificazione sarebbe un'impresa, perché le cose vanno chiamate veramente col loro nome. La Roma è la terza squadra di questo girone per storia, per pedigree recente, forse non per qualità tecnica, però so, sarebbe bello scoprire che non è la terza, ma che è la seconda o addirittura la prima. Quindi stasera è una partita nella quale secondo me bisogna provarci. Usare. Esatto, chiaro che noi, i numeri della Roma in Europa non sono straordinari, una vittoria nelle ultime 8 partite in casa, insomma è ovvio che c'è un po' una sensazione da prima volta contro una squadra che è cresciuta rispetto a 2 settimane fa. Sicuramente il Chelsea ha risolto un po' di problemi, ha recuperato giocatori, però insomma se non ora quando, non prendendo in prestito uno slogan di cose ben più importanti che riguardano i diritti delle donne, ecco. Ma d'altra parte, d'altra parte, Marco, non vedo perché no, la Roma ha ragione, Pardo, ha ragione. Sì, come qualche volta, raramente capita, ti dico la verità, però sto scherzando. No, però ha ragione, se non oggi, quando? La Roma può giocare alla fine questa partita, il cuore leggero. È chiaro che per la Roma la Champions League deve essere, così come in parte per il Napoli, una fonte di guadagno e una vetrina internazionale. No? E quindi può giocare relativamente leggera. Per il Chelsea il discorso è diverso, il Chelsea sarà più teso, più zavorrato. Al Chelsea e a Conte si chiede strade in Europa. Sì, assolutamente, e credo che poi dopo la partita di andata, che poi quello era un periodo un po' difficile per la squadra, il Chelsea abbia avuto, vedendo la Roma, è rimasta anche un po' impressionata da come poi quella squadra lì ha affrontato la gara fuori casa, tra l'altro, ma soprattutto come ha recuperato lo svantaggio. Quello è stato dimostrazione di grande forza anche caratteriale e di equilibrio mentale, quindi Chelsea è rimasto impressionato da questa Roma, e a maggior ragione bisogna tentare e usare, anche se poi il Chelsea ora è in un momento di forma anche psicologica migliore rispetto a 15 giorni fa, però a fare i conti, qui si passa il turno, bisogna ragionare di classifica. Il pareggio dell'Atletico Madrid in Azerbaijan e il tuo pareggio a Londra questa sera ti dice di osare, perché poi se dovesse andare bene stasera le cose, poi ti giochi tutto praticamente in casa col Karabakh. A quel punto hai il destino nelle tue mani e non puoi sbagliare. Certo, e lì diventa interessante la cosa, perché quando dipende da te è meraviglioso. Ragazzi, vi giro un'ultima considerazione che non riguarda né la Roma né la Juventus, di cui parleremo dopo. Riguarda l'Inter e un confronto a distanza con il Milan, perché ieri sera, torno a ripetere questo discorso, Spalletti ha schierato per la quarta volta consecutiva la stessa formazione, dicendo: ma turnover, perché devo farlo? E sta trovando in questo modo la quadratura. A me gli ex non solo del Chelsea, da Roma, ma anche del Milan. Perché non lo fa anche Montella? Scusate se insisto sul punto. Perché Montella non ha trovato 11. Scusate, forse rispondo prima Marco. Non ha trovato 11 titolari. L'Inter è la squadra che sta cambiando meno, è la squadra che ha meno giocatori impiegati e meno titolari impiegati. Il che vuol dire, da un lato, una cosa brutta, che forse non è a molti, e sappiamo che questo è un po' il punto interrogativo della stagione dell'Inter, cioè che è un po' corta come rosa, soprattutto dietro, e dall'altra però una cosa bella, cioè che le gerarchie sono molto chiare e che quelli che vanno in campo funzionano. Il Milan è il contrario. Il Milan è il contrario perché indubbiamente ha lanciato messaggi contraddittori a Montella. La vita di Montella non è facile, io sono delle attenuanti gliele do, nel senso che tanti giocatori nuovi hanno lanciato messaggi contraddittori, però poi a un certo punto... Ma la via giusta, io continuo, scusate se insisto, ma continuo a pensare che la via giusta, quando sei in un momento di difficoltà, di grande cambiamento eccetera, sia questa di Spalletti, cioè ne battezzi 11-13 un modulo e vai con quello. Marco, mi sbaglio? Sì, potrebbe essere, poi però bisogna star lì e cercare di capire meglio la situazione, però Vincenzo non ha una situazione buona, perché poi quando vengono cambiati tanti giocatori di solito si ha il tempo per poter provare, ragionare, vedere, trovare gli equilibri anche di spogliatoio. La sensazione è che Milan questo tempo non lo abbia, quindi diventa tutto più difficile, quando poi arrivano risultati negativi viene tutto amplificato e si creano ancora più problemi. E la differenza tra l'Inter e il Milan in questo momento è che l'Inter era già una squadra ben formata, ha cambiato pochi giocatori, il Milan no, e il fatto di non avere le coppe probabilmente può portare anche un allenatore a fare una scelta come sta facendo Spalletti, di puntare su gli 11 titolari e di dare comunque i giusti ruoli agli altri. Posso chiedere al dottor Amelia che progetti ha? Io penso che l'esperienza inglese lo abbia abbastanza forgiato, no? L'idea di un allenatore manager che vuoi fare da grande, Marco? A me piacerebbe fare il manager all'inglese, perché poi l'ho visto studiando non solo gli Al Chelsea ma anche le altre squadre che sono riuscito a vedere, sia di Premier League ma anche altre squadre di Londra, di Championship e terza serie. Mi piacerebbe quello, anche se poi qui in Italia non è visto molto questo ruolo, però sai, comunque io nella mia vita ho fatto anche, diciamo, il proprietario di azienda, quindi a livello... Ma intanto fai ancora portiere, no? Sì, nel mentre mi sto allenando, cioè sto facendo questi due mesi, sono a ritmo altissimo, perché comunque le 8 ore di lezione per il corso, e poi la sera vado ad allenarmi qui a Coverciano, fortunatamente mi danno a disposizione il centro per potermi allenare, e diventa anche un po' impegnativo dal punto di vista psicofisico, però io voglio continuare anche a provare, a vedere se c'è la possibilità di stare avanti. Ho 35 anni, sono sano e posso farlo, poi arriverà il momento in cui dovrò decidere, che sarà il giorno dell'esame del corso. Fare l'esame mi comporta mettere in Italia, però poter continuare a giocare all'estero, quindi non ho vincoli di dover smettere per forza. Ma però la vita, faccio quello saggio, la vita deciderà per te, nel senso, io credo che tu abbia, se lo dico sinceramente, conoscendoti, tre caratteristiche per una carriera, poi luminosa o non luminosa non lo sappiamo, nel senso che poi la qualità degli allenatori la si misura facendolo quel lavoro, è come i telecronisti, quando prima di fare la telecronaca non sai se uno è portato o non è portato, se crescerà, vale per qualsiasi lavoro e per qualsiasi mestiere, però insomma diciamo dal punto di vista teorico Amelia ha queste caratteristiche, nel senso che comunque l'intelligenza, la preparazione, anche una serie di aspetti legati alla comunicazione, al sapersi presentare, che oggi nel calcio è fondamentale. Lo insegnano anche qui a Coverciano, fortunatamente l'ho riscontrato e sono contento di questo, che la comunicazione diventa fondamentale, ma non solo per il ruolo dell'allenatore, oggi diventa fondamentale anche per il calciatore stesso. È chiaro. Purtroppo ci sono delle situazioni come i social che possono mettere in difficoltà se usati male, e quindi bisogna saperle fare queste cose. Io fortunatamente ho un gruppo di lavoro in questo senso e ho studiato insieme a loro per poter comunque portare avanti anche questo lato di un ruolo che poi è fondamentale, da calciatore ma anche da allenatore, ma è fondamentale, ti cambia veramente tutto. Grazie Marco, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao Marcone. Grazie a Marco Meglia. Pier, ci fermiamo per la borsa al volo perché siamo in ritardo, torniamo subito dopo l'intervallo. La lotta continua. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta State ascoltando un programma offerto da Birra Antoniana. In ogni birra una storia. Scoprila su birraantoniana.it. Tutti convocati. Con l'avvicinarsi delle gare da dentro o fuori, noi riusciamo secondo me a trovare dentro di noi le motivazioni e trovare l'unità, insomma, di intenti giusta per dare le risposte che dobbiamo dare. Noi domani è una partita dove bisogna uscire con un risultato positivo. La vittoria ci consentirebbe di chiudere definitivamente la qualificazione, un pareggio ci porterebbe avanti. Io per Luigi Pardo non andremo mai d'accordo sulla più bella città del Portogallo. Lui si prende Oporto, io mi prendo Lisbona, dove c'è la Juventus stasera con lo Sporting. Sì, non è brutta neanche Lisbona, no, diciamo. No, pa male, diciamo pa che male. Sono al primo e al secondo posto delle città europee italiane escluse, quindi. Però mi prendo Porto, sì. Comunque, il signor Champions League su Mediaset Premium, un'amica per Luigi Pardo, è Sandro Sabatini. Buongiorno Sandro. Ciao, e do subito ragione a te, non c'è paragone tra Lisbona e Porto. È solo Pardo che è un malato di Porto. No, vabbè ragazzi, allora innanzitutto il mondo si divide fra quelli che sono stati a Porto e quelli che non ci sono stati. Io ci sono stato, Piero. Sì, ma probabilmente avevi la compagnia sbagliata, avevi qualche problema, l'emicrania, perché Porto è una città, c'è niente da fare, una città incredibile. Porto, cioè, voglio dire, se vi piace Lisbona, che rappresenta lo spirito del Portogallo, quindi questa decadenza, questo senso delle acque del fiume che tendono verso l'oceano, il treno che arriva a caldo sodre, Pessoa, questa solitudine, questa disperazione in fondo serena, Porto è l'estremizzazione di questo concetto, quindi Porto è il Portogallo in purezza. Vabbè, stiamo parlando di geografia, Lisbona decadente forse un tempo, adesso vai sulla sul docks. Primi tempi, aneddoto di 20 secondi, primi tempi Mourinho in Italia. Mi ricordo prima di quale partita, lì chiacchiera a bordo campo eccetera, io per fare, perché mi piace, e così per rompere il ghiaccio dico: ma sei stato anni a Porto, dove vivevi? Alla Foscia, che città straordinaria Porto. Non mi piaceva. non mi piaceva, stavo bene per il lavoro, ma non mi piaceva. Ma come non ti piaceva? Ma sei di Setúbal, voglio dire, con grande rispetto lo dico. Ragazzi, non brutta neanche Setúbal, ma non c'è partito. Marco, la provincia di Torino, meglio Porto o Lisbona? Meglio Lisbona tra le due. C'è solo Pardo che preferisce Porto. Ma seguite scelte commerciali. Porto è indie, ecco. Porto è indie e Lisbona è pop. Trova delle ragioni su tutto. Marco, cosa voleva dire? Due spunti. Allora, il primo è: provo che questo sia un campionato, quello italiano, da Champions, nel senso che è tagliato ad hoc per le squadre che hanno la Champions League. Negli scontri prima e post della Champions possono fare turnover in abbondanza, giocare con le seconde linee, a meno che non abbiano uno scontro diretto in campionato. E la seconda cosa che si associa un po' al golf, al foot golf, per pesare il campionato italiano, in uno scontro match play tra le squadre italiane e, che ne so, il campionato inglese, prima contro prima, seconda contro seconda e così via, noi la perderemo di brutto, credo. Cioè, faremo comunque pochissimi punti. Penso che il livello di quei campionati sia nettamente superiore, se non per 3, 4, 5 squadre forse che se la possono giocare, ma tanto stasera non lo so. Ci vediamo Roma-Chelsea e vediamo. Non lo so, ma sono anche invece abbastanza contrario al rispetto, ovviamente, al punto di vista. Ma secondo me invece oggi ce la aspettiamo, perché guardate che il Napoli, adesso vediamo come va domani sera, ma ha giocato 70 minuti all'altezza a Manchester. Mm-hmm. Contro la squadra, secondo me, per distacco migliore d'Inghilterra in questo momento. Oggi, secondo me, insomma, Roma-Arsenal o Roma-Chelsea, vabbè, Roma-Chelsea vediamo come va, ma insomma, Liverpool-Tottenham, siamo su quel livello lì. Sandro, che dici? sono d'accordo, e poi la risposta alla chiamata di questo nostro ascoltatore arriva proprio dalle partite, perché prima contro prima significa Napoli contro Manchester City. Quello che dice Pier non mi trova completamente d'accordo, ma è un gioco di amicizia tra di noi, perché comunque è un conto è giocare 70 minuti meglio in Manchester City quando sei sotto 2-0, è un conto giocarne 70 quando sei 0-0. Sono d'accordo, raccolgo la provocazione e ti dico che da Roma, poi vediamo come va stasera, in campo del Chelsea ha giocato meglio del Chelsea fuori campo, questo credo sia oggettivo. Cioè, io credo, però sono cose che adesso dette adesso, martedì alle ore 14:42, rischiano di portare sfiga. Aspettiamo giovedì e vediamo di capire. Però secondo me oggi Roma e Napoli, che hanno le due sfide con gli inglesi, se la devono giocare, devono essere ovviamente molto rispettose, ma secondo me quel complesso che avevamo 2 anni fa, 3 anni fa, quella fase oscura del nostro calcio, io spero e penso che sia alle spalle. Poi probabilmente, visto che si è allargata molto la forbice fra le primissime e quelle di fascia media, poi probabilmente il discorso del nostro ascoltatore fra la decima italiana e la decima inglese è vero. Però tra la terza italiana, ma la terza decima italiana e decima inglese, l'Atalanta con l'Everton l'abbiamo vista. E allora? Sì, è vero, però voglio dire, l'Atalanta è pure quella che va a perdere in casa, è vero, l'Atalanta e Everton hai fatto benissimo a citarla, perché è una partita fra squadre, diciamo, di medesimo lignaggio in questo momento, di medesima caratura, e ha vinto l'Atalanta, ma anche il tanto. Sì, a dirla tutta proprio con precisione, l'Everton, se non sbaglio, è terz'ultimo in classifica. Un po' una nobile decaduta, come si dice. Senti Sandro, invece la Juventus come la vedi stasera? Riesce a centrare il passaggio del turno con due giornate di anticipo? Secondo te, tra l'altro, gioca la formazione migliore, Sava Sandir, la formazione grosso modo titolare della Juventus? Ma che ti dica, anche se alla Juventus e ai tifosi juventini fa effetto sentirselo dire, quella di stasera è come una piccola finale per la Juve, perché magari è un test proprio come se fosse una futura finale che dovrà affrontare, perché comunque la Juve ha un'occasione imperdibile. Se vince si concede la passerella per lo spettacolo contro il Barcellona e la passerella gita turistica in Grecia con l'Olympiacos, ma questo non significa poi snobbare la Champions League, significa nobilitare e concentrare tutti gli sforzi sul campionato. No, ma anche perché arrivare primi rimarrebbe comunque un obiettivo. Però sì, stasera è importante. Per arrivare primi, Pier, dovresti battere 4-0 in casa in Barcellona. Il Paris Saint Germain ci è riuscito, però sulla carta mi sembra complicato. Ecco, questa è l'occasione che ha la Juventus stasera, e guardando il calendario poi del campionato, con tutti gli scontri diretti che sono a ridosso anche dell'ultima partita contro l'Olimpia, tutti i modi di inculcare nella testa di suoi il fatto che questa sia una partita da vincere a tutti i costi. Sì, perché ricordiamo che il 1° dicembre c'è Napoli-Juve e il 9 dicembre c'è Juve-Inter, appunto, ravvicinatissime dell'ultima, meglio levarsi il pensiero questa sera per la Juventus, non c'è dubbio. Detto, potresti andarci con Pizzoglio, con grande stima, però un ragazzo che ancora non ho visto giocare, ma che mi dicono sia molto bravo, no? con ovviamente delle seconde linee che devono giocare. No, per la Juve questo è verissimo. Secondo me, ecco, l'unico vero difetto della stagione fin qui, della traiettoria fin qui perfetta del Napoli, è stato invece proprio la sconfitta in Ucraina. Che gli ha incasinato la vita non poco, che rischia, insomma, secondo me, con una squadra che ha una rosa profonda ma che ha avuto il problema di Milik lì davanti, insomma, di non avere più un momento di respiro fino al 10 dicembre. Poi, come si diceva ieri sera, secondo me anche giustamente con Raffaele Auriemma, poi alla fine l'Europa League, cioè l'idea, anche il pensiero malsano di guardare più al campionato che alla Champions, anche ove ci fosse, secondo me rischia di essere una vera boiata, perché poi se retrocedi in Europa League finisci per avere un febbraio ancora più complicato. No, evidente. Con 4 partite, quindi insomma, però io ti dico perché no? Cioè io penso che sia arrivato il momento per l'italiana di sì, di fare un salto di qualità della Juve, perché la Juve ha fatto questo è evidente. Poi il girone della Juventus alla fine non è così difficile, ad esempio, come quello della Roma. Ragazzi, grazie, vi saluto, vi abbraccio. Ciao, ciao. Ma non è presto? Che devi fare adesso? Vuoi stare? Sì, no, voglio parlare di Dovizioso, stai lì. Volevo dirti che ieri ti ho citato Tiki Taka, ho citato i Mind Games. i mind games del mio amico Jen. Ne sono fiero, orgoglioso, onorato, fratello mio. Stai lì, saluto Sandro Sabatini che ha da fare, perché ciao, stasera lavora a differenza tua. Che proviamo commenti a chiudere in bellezza comunque, come abbiamo fatto con tre italiane qualificate alla fase a gruppi, proviamo a qualificare tre italiane agli ottavi, così noi di premio chiudiamo in bellezza. Yes. E anche Pardo dice let's go guys. Traffico. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta. Tutti convocati. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alla casolare. Allora, amico mio, per Luigi Pardo. Sì. Questa la sai, vabbè, la sì, sono, la no, io devo andare a trovare Roma Chelsea, però questa qui la so, Romagna mia. No, ma ti voglio raccontare una cosa, in contumacia di Bartoletti che stiamo cercando. Sì. Domenica mattina mi arriva un messaggio con la prima strofa, Romagna mia, Romagna in fiore. Io Bartoletti dedicata ad Andrea Dovizioso, naturalamente, che ha vinto quella corsa e ha tenuto accese le nostre speranze di poter fare una puntata da Forlì dopo Valencia. Io la vedo duretta. È durissima, ma... se non sbaglio rimane essenzialmente una tattica, la macumba. No. La macumba. Una macumba dove ovviamente nessuno si faccia male, ci mancherebbe altro. Cioè, un piccolo problema, una candela. La candela bruciata. Che ne so, c'ha le candele da morte. Sì, per esempio. Questo non tanto. Ecco. No, da parte le battute, ovviamente, non auguriamo mai del male a nessuno. No, però, per carità. Ci mancherebbe. Ah, però da profano ti posso dire che quello che ha fatto Dovizioso quest'anno è incredibile. Quindi. Sì. È un sogno quasi irrealizzabile, ma sarebbe ci crediamo, veramente meraviglioso. Noi ci crediamo. Ci crediamo perché vabbè, ha buttato via quei punti in Australia, ma ha avuto un andamento. Forse ci ha creduto un po' dopo, un po' tardi. Marino Bartoletti, buongiorno. Eccolo. Buongiorno a tutti. Come non auguriamo del male a nessuno? La sboronaggine forlivese in questo momento deve emergere assolutamente. Che caro, una candela che si di segno dappertutto dove passa Marco. Come? Puntine da disegno. E d'altra parte, ragazzi, studiare la traiettoria e mettere le puntine da disegno. Oh, ma d'altra parte, chi la fa l'aspetti, professore. Una l'abbiamo data, magari questa ce la prendiamo, no? Dio c'è, parla romagnolo, ragazzi. No, poi posso dirti una cosa, con tutto l'affetto per Valentino. E ovviamente ci ricordiamo quel finale di due anni fa del mondiale, che ci ha lasciato tutti molto, molto depressi. Però da un certo punto di vista io il mio tipo è ancora di più per Dovizioso, perché mi sembra veramente un ragazzo tra virgolette della classe operaia della moto, che è cresciuto tanto, forse quest'anno come dicevo prima ha realizzato tardi di avere qualcosa in più perché a me sembra che è cresciuto. Io adesso non sono un tecnico e lo dico chiaramente, però mi sembra che in termini proprio di autostima e di prestazione del pilota lui sia molto migliorato dalla seconda parte della stagione, sarà migliorata anche la moto per carità. Però mi sembra così. È così, ha corso una stagione pazzesca. Con tutto l'affetto che ribadisco per Valentino, che lo ripeto sempre modestamente, mi ha fatto la pittura addosso quando aveva 6 mesi, io mi sono accorto che adesso, diciamo, non guardiamo Valentino, ma guardiamo la MotoGP. C'è stata una mutazione genetica quest'anno nell'interesse del movimento motociclistico, soprattutto di quella che è la classe regina, come si diceva una volta. Poi non dimentichiamo che abbiamo un campione del mondo quest'anno, sì. 8 anni dopo Valentino, Morbidelli. 9 anni dopo nella 250, cioè nella classe media, il grande Marco Simoncelli, abbiamo Morbidelli, che per noi vecchi evoca un nome molto importante. Morbidelli era una grande moto, frutto del genio di Giancarlo Morbidelli, che nasce contadino, si fa industriale, un bel giorno dice faccio le moto e vince 4 titoli mondiali, mettendo in sella gente anche come Graziano Rossi, fra l'altro poi come Bianchi, Pileri, come Buscherini, come Neto, come come tante come Parlotti, come tante persone che gli hanno, come Lega che vinse il titolo della 250. Ragazzi, memoria di persone anziane, perdonatemi. No, ma tra l'altro anch'io memoria e ricordo Graziano Rossi 4-5 anni fa parlarmi benissimo di Morbidelli, che tra l'altro viene da quella scuola lì, no? Viene dal ranch. Come no? Guarda, Morbidelli ha avuto una storia personale, come sapete, piuttosto complicata, fatta di gioie e di dolori, e ha trovato in Valentino primo fratello maggiore, forse anche un secondo papà, perché comunque il suo primo papà, Livio, un bel giorno disse: se tu vuoi diventare qualcosa nel mondo della moto, ti porto a Cambridge, e lo portò a Tavuglia, e da lì è diventato veramente campione del mondo. Ragazzi, io voglio chiudere con una ricorrenza. Allora, sono giorni benedetti dal cielo, dal dio dello sport, questi, perché ieri compleanno di Dieghito, 57, oggi compleanno di Marco Van Basten, 53 anni, 30-31 ottobre, miei cari. Bei giocatorini, eh? Anche il compleanno di Bigon oggi, ricordiamolo, eh? 70 anni di Bigon, l'ultimo a vincere uno scudetto col Napoli. Ho appena ascoltato la conferenza stampa di Sarri, non so chi gli scrive i testi, ma oggi era particolarmente in forma, particolarmente in forma. Che ha detto? Io non ho avuto modo di sentirlo, Ma ha detto: li dobbiamo portare nell'acqua alta, come dire, non gli dobbiamo far passare la prima mezz'ora, perché a quel punto li potremmo anche affogare. Voglio vedere le loro facce impaurite, desidero che il protagonista della partita, o perlomeno quello che segna, sia un giocatore del Napoli che fino adesso non ha segnato, e tante altre cose che vi consiglio di andare a vedere nell'edizione integrale, credo su TV Luna, perché vi assicuro che se la partita è come la conferenza stampa, sarà una grande partita. No, ma sarà una grande partita. Sarà. Secondo me stiamo per vivere grandi partite. Speriamo, anche perché temo sinceramente che il Napoli o vince o vince, altrimenti poi ci viene il mal di testa col pallottoliere. Certo, questo è chiaro. Ragazzi, vi ringrazio. Ciao. Ciao, si figuri. Vi saluto Napoli. Salutaci Napoli, ovviamente. E allora, invece, abbiamo recuperato di corsa un Sarri volante. Ve lo faccio sentire prima dei saluti. Dobbiamo avere un impatto alla partita nettamente diverso rispetto alla partita andata. Dobbiamo cercare di portarli nell'acqua alta, nel senso che loro sono una squadra che spesso al trentesimo è in vantaggio o in doppio vantaggio, e noi dobbiamo portarli al risultato ombilico, e quindi dobbiamo cercare di portarli dove loro non sono abituati. Voilà, miei cari, pronti a seguire il Napoli e Sarri domani sera nell'acqua alta. Intanto stasera seguiamo la Roma che riceve il Chelsea e la Juventus a Lisbona. Domani ne parliamo, ovviamente. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.